Biatch. My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pizer. Bisogna proprio volere bene alla radio e a Ragnar Pizer soprattutto per sfidare questo tempo di questo lunedì scuro e piovoso e arrivare in diretta sulle frequenze di Controradio. Yuhu! Beh, che comunque la maschera te la potevi togliere, Halloween è già passata. Ormai ho deciso che la tengo vita naturale durante. Sai, può fare sempre comodo. E invece, guarda, in diretta, senza ancora neanche sapere cosa avresti suonato tu questa sera... Che c'hai, un libretto? T'ho portato un regalo, ti è, prendilo al volo, che non fa rumore col microfono ipersensibile che ti... Cumbia, ricordi? La musica afrocolombiana. Hai capito? Ah. C'ha anche un CD dentro. Ah sì? Sì. Che fai, me lo regali? Ti sto anticipando il regalo di Natale, capito? Non lo richiedere poi verso il 25 di dicembre, perché ho già speso così e va bene così. Le 9 passate da 2 minuti, siamo in diretta con un'altra puntata di Ragnar Pizer. Nonostante la pioggia e le feste, primo in console è Duccio, ma dobbiamo ricordarvi un po' di contatti. Allora, innanzitutto ragnarpaisa.blogspot.com, che è il posto dove potete scoprire, se magari questa trasmissione la state ascoltando per la prima volta, tutto quello che è successo fino adesso. C'è l'archivio storico. Yes. Tutte le puntate andate in onda finora. Poi un indirizzo email: info.ragnarpaisa@gmail.com. E infine un numero di telefono dove ci potete chiamare durante la diretta, quindi da adesso fino alle 22.30, 055 73 99 33. Yes. Mi sa che il viaggio di questa sera, almeno musicalmente parlando, parte dall'Etiopia e da Mulato a Statke, che abbiamo riconosciuto, anche se sicuramente manipolato in qualche strana maniera. Comincia così la selezione di Duccio fino alle 9.20. Buon ascolto. As we enter, come the quick ticket on the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint mirrors. It is truth, we big news, we hood heroes. So ask the anchor, we come to conquer. Run a bad man, we not play Willy Wonka. And I got the guns, I got the ganja. And we can blaze it up on your block if you wanna. Or case it up, stash box in a Hummer. Or you can run up and get done up. Or get something that you want none of. Unlimited amount to collect from us, direct from us, street intellectuals. And I'm shrewd about decimals, and my man to speak patois, and I can speak rap star, y'all feel me, even if it's in Swahili, a body Ghani. Missouri sana, switch up the language, I move to Ghana. Salute and honor, real revolution rhymers, written piranhas, like two Obamas. Unfold the drum. Word is out, hysteria you heard about, Nas and Junior Gun came to turn it out, body the verses till I scream murder out, the king's is back, time to return the crown, who won it, tuck your chain with dude coming, renegades and gaze. heavy when we turn. World a girl, one world a girl. Me up 13 down, 14 Sofia, plus 15 Kerry Walker, Nova Scotia. Heavy when me turn, yeah. Heavy when me turn. World a girl, one world a girl. Me up 13 down, 14 Sofia, plus 15 Kerry Walker, Nova Scotia. Heavy when me turn, girl, I tell me pull over. Girl suicide, I put them in down the rover. We are at war, say girl ever want to see me. And I say, the loving with them of them want give me. Girl pass the goal, it's a thousand times for see me. And I pint on the horse, on the hill, I say you feel me. Then you know see. You know see how me, every girl I'm a dover. You know see how we, every girl I'm a dover. Every girl I road wish for be my lover. Me, yeah, the mama dover. Move. Some boy a bit of a set attack, but I call on them. So I'm a bar with soft out of boy. We love talk, talk. Some boy now me no dog bark. I don't want like them a dog car. Them talk fast if it's all jobs. Criminally, it's all off. Hardiest as to them shout parties. Ring like yeah. Pop, pop, we no power. We no informer. No, no, no, no, no, no. We run from siren. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. A drop a jail, no them no talk from no border. Real gangsters, love people are hard, yeah. So when we touch the street, when we touch the street, every time we talking need people not to see. Real bad people are bad. I just real bad people are bad. Swag diggy, transform from them. Yeah. Yeah, what do you want me to do? After I'm in a farm and I'm a mechanic. Hold on, hold on, hold on, hold on. Yo, my name is Mr. Lex, and I'm from Mountain View. Hello to who don't know me. Hi to those who do. Big up Telly Ranks, and my nigga daddy's too. When them give me the mic, them never tell me what they do. So I just do my thing from 1992. 1998, open and my fly right through. Now I'm 2010, and I'm feeling brand new. What the hate? Cause them a go vex till them blue. I know for who no DJ still sound like last year. The game need change and I'm the freaking cashier. You know when me at them look a fool they can't glimpse me. Furthermore, cartel are the baddest thing since me. Watch me transform now, watch me transform now. Me transform now, watch me transform now. Watch me transform now. Wah, I'm so fresh, so clear, so clear, so clear, so clear. Man a general, every ghetto youth. Man a godfather, man a general. Them for no, man a general. God of peace, the angel of death. Every ghetto youth don't fret. From your walk life, you walk everything. Them couldn't stop my breath. Them can't take my life. Jah love me so, can't take my soul. I'm going back for everything I know. I'm unstoppable. Each and every day I'm pray. Beg Jah up on the earth more of a stay. Me try for be a decent man, but still, when they come for me, all I can see is getting killed. So the smoother voice will never sound familiar. When I rise to the top, you know they wanna kill you. Many wanna live my life, but my life is real. Never copy me, this imperative will kill you. Get a youth here, nine life. No fear, no boy, I just so rule. Nine life, to have everything under control. I'm so special, I'm so special, so special, so special. That's why I'm a with my 45 special. Boy, I pray me together, they want chase like petal. Thank Jah. I'm so special. I'm so special, so special, so special. Tell them me no fear, two fears, expression. Guy for no, dirty mode can't chase nor they tell me hear them shot. And I said them want me head pan black, but me burn the fire till it red pan that you better. Help poor people with them bed pan black. Hey, dirty heart, you a go dead from that seat. Now them a say me mark for death and eat. Time what them say me walk for death, you see it. Them lock me down and me can't forget. God, Jehovah did a guide me, say me not regret it. I'm so special, I'm so special, so special, so special. That's why I'm speaking for the five special. They want to It's Ronnie. Just in case you never know. Just in case you never know. Please. Jah guide and protect them. From nothing to something. Yeah. It's okay. Yes. It's alright. From nothing to something. Fight the fight. No. We're shining like a light. Yeah. Starlight, shining like a starlight, yeah. Starlight, shining like a starlight, yeah. When I do no more robberies, me live at ease, me bun. These weed leaves from these trees, tattoos from my girl titties, me name in the breeze. Violence, me cease, musky, no Levi jeans, and all these Timbos, I just got to have these. Guns, money, girls like these, house rent out, I'm collecting fees. A couple more hits and guess I'll be in the breeze. Me and me wanna tailor, me wanna sailor. Suppose more make a chick go cross trailer. Cruise the airway, now me Lexus trailer. Keep run, me bust it up off a Satan. Me rifle, me sing sweeter than he can. Why is it? Find out with a stuck tongue cut out. The girl them see a lot of soft things. Push me gun in your mouth to make a suck out. How much time? Your feet are in the war. How much time? You want your head bust out? Me see you bust my gun and bust. So no know me. Girl, me love how you are gone. Me can't wait for all you know me am. You're something tight from your band. Yeah. Me never believe you when you say you're something tight to get a squeeze. Whoa, she cock it up on me. Me love her, she back it up on me. Whoa, whoa. Get her dress them stiff, make my pants front lift. Lad me out, that's a chip, be hard to stick. Strap it up like a dick, me no name fish, me no eclip. Yeah. Move your jaws and sit down, you know. In her bed, this your boss, everything down. At the sweetest time, when the sun gone in rain and fall and the moon start shine. She know I rain and never got care the sweetest wine. She see me alone, alone, alone, none can make she feel fine. She call me phone line, same time. And she a crow, span it, kick off her shoes, span it. And one man she chose from it, she kick up a bruise from it. Up and down, round and round, shake it around. My love all your round, move your body to the beat of the sound. She do your pass a pass on the street of the town. Me love her now. Tip on your toe. Hey, when I style she walk. Oh, when I style she walk. Hey, when I style she walk. Oh, when I style. Hey, up in her belly when me send this a cocky. Girl a ball out, she know why me fi stop it. Wine her waist and her brace me a slap it. Hot girl, she know seize up like jalapi. Wine her, when the verse me a grab it. Wine her, and me now run for me. Hold, easy, calm, relax. Tip on your toe, but don't catch relapse. Ball jay pop out and you not fi ax. Bad man a work and me now left me sock. She say, le le le le le le le le le. Ula lula lu, she want it down, nana. Girl get down here, she want a book. Up on the dresser where she plant her foot. Girl from country to town to Narbrook. Girl from foreign a flight, them want book. Anyway, me step up here, at girl follow back at me. She no find out what a man fi walk around like me. Me say, well, baby, she grab on call me. I tell me say, I want your puppy. Le le le le le le le le le le. Ula lula lu, la la la la la lo. She say, oh lo lo lo lo. Fuori dalla finestra sembra inverno cupo e invece Duccio col suo set ci ha riportato proprio l'atmosfera pienamente estiva, eh? No, comunque finestra aperta con fuori 3 gradi e dietro la schiena acceso il condizionatore a più 45 gradi. Diciamo che non siamo per il risparmio energetico, eh? No, siamo veramente dei cani da questo punto. Delle bestie, sì. Invece volevo ricordare che siamo tutti reduci da un fine settimana bello intenso, bello pieno, che è incominciato venerdì scorso alla Flog con un ottimo live di Busy Signal. Direi la serata molto bella artisticamente, se non fosse che il pubblico era poco, no? Vabbè, sì, peccato. Però insomma ha fatto un bel live. Gran bel live, yes. Registrato anche un bel po' di dubplate, qualcuno l'abbiamo sentito poi anche nel proseguio del weekend, in modo particolare nella 2 giorni organizzata da Switch al Viper Club di Firenze, dove si è svolto Trick or Beat alla 3ª edizione, che ha portato sul palco sabato sera Jatari con Sum T alla voce, progetto tedesco dedicato al digital laptop reggae, che suonava molto roots, no? Poi alla fine come sì tab. Sì sì. Solo che era tutto molto fatto... digitalone 80. Esatto, l'ispirazione è proprio quella lì. L'epoca del digital reggae. E poi invece ieri sera, gran bella serata, questa volta strapiena proprio di gente, con Accia, un po' il padre della scena dubstep dell'East End londinese, e Numa, The Bug e Numa. Yes, ora avevo un attimo un lapsus. The Bug, nome storico anche questo della nuova scena indipendente londinese, dietro a un sacco di altri progetti, tipo Kimmy da Sound, giusto per ricordarne uno. Kimmy da il Sound, non lo so. È una domanda alla quale dovremo trovare risposta prima della fine della puntata. Siamo arrivati alle 21.24, prima del set di Biga vi lasciamo con un breve break pubblicitario, poi rientriamo. Contest 2010, quarta serata di selezione dal vivo al Glue, il nuovo locale presso il Circolo Lattico, Viale Manfredo Fanti 30, zona Stadio Firenze. Rock Contest 2010, quarta serata di selezione dal vivo al Glue, il nuovo locale presso il Circolo Lattico, Viale Manfredo Fanti 30, zona Stadio Firenze. Giovedì 4 novembre alle 21 sul palco del Glue al Circolo dell'Africo, Sinfonico on Lulu da Livorno, Melodicat da Bologna, Tealt da Fermo, Atterraggio Alieno da Firenze, The Roadside da Roma, Sara Schuster da Viterbo. L'ingresso è libero. Rock Contest, iniziativa Controradio e assessorato alle politiche giovanili del Comune di Firenze in collaborazione con la campagna Il Cuore si Scioglie. Per ascoltare oggi le band di domani, vieni al Rock Contest. Cos'è intolleranza? Intolleranza è uno sciocchone per i giovani, dove si ascolta gli altri e magari si impara anche qualcosa. E quanto costa? Beh, nulla, è gratis. Prossimo spettacolo, venerdì 5 novembre alle 17.30 al Teatro Comunale Niccolini di San Casciano, via Roma 47. Bella bestia, bimbi, mi raccomando, ci si. Intolleranza è un'iniziativa di Filigrani, azione di sistema delle politiche giovanili della Regione Toscana. Rock Contest 2010, terza serata di selezione dal vivo al Blu, il nuovo locale presso il Circolo Lattico, Viale Manfredo Fanti 30, zona Stadio a Firenze. Giovedì 28 ottobre alle 21 sul palco del Blu al Circolo dell'Africo, Bingo Bongo Trio da Pistoia, Kozminski da Milano, The Terris da Reggio Emilia, Eight da Massa, Blue Pop Cycle da Firenze, Jan Leclerc da Firenze. L'ingresso è libero. Rock Contest, iniziativa Controradio e assessorato alle politiche giovanili del Comune di Firenze in collaborazione con la campagna Il Cuore si Scioglie. Per ascoltare oggi le band di domani, vieni al Rock Contest. Rock Contest 2010, quarta serata di selezione dal vivo al Glue, il nuovo locale presso il Circolo Lattico, Viale Manfredo Fanti 30, zona Stadio Firenze. Rock Contest 2010, quarta serata di selezione dal vivo al Glue, il nuovo locale presso il Circolo Lattico, Viale Manfredo Fanti 30, zona Stadio Firenze. Giovedì 4 novembre alle 21 sul palco del Glue al Circolo dell'Africo, Sinfonico on Lulu da Livorno, Melodicat da Bologna, Tealt da Fermo, Atterraggio Alieno da Firenze, The Roadside da Roma, Sara Schuster da Viterbo. L'ingresso è libero. Rock Contest, iniziativa Controradio e assessorato alle politiche giovanili del Comune di Firenze in collaborazione con la campagna Il Cuore si Scioglie. Gangnam Paisa. see the new sun. Waiting for to know a new light. As much as we are. Hey Golgotha, do your friends still do? Karaoke. Hey Golgotha, do your friends still do? Possível fazer o tempo parar. Num quarto escuro fechada com chave da virgindade. Un giro molto psichedelico, quello che ci ha fatto fare Biga, l'aveva promesso d'altronde all'inizio della puntata, i suoi 20 minuti a disposizione. Prima di introdurvi il set di Tommy, facciamo un po' una specie di ricapitolazione di alcune delle cose più interessanti che ci sono la prossima settimana, ad iniziare proprio da una data romana che devi ricordare tu perché ci stai, diciamo così, motivando ad andare a sentire questo concerto da diverse motivando. Settimane. Io ci vado. Da un mesetto, quindi mi sa che lo hanno prenotato un bel po' di persone. Stiamo parlando naturalmente del concerto di Prince a Roma martedì prossimo, vale a dire domani. E se non sbaglio domani l'altro è a Milano. A Milano forse sì. A Roma è al Pala qualcosa. Pala Lottomatica. Pala Lottomatica. Invece per quanto riguarda date fiorentine toscane, vi ricordo che venerdì prossimo c'è un doppio appuntamento. Sono stato io che ho appoggiato, che mi sono tolto le cuffie, tanto sono inutili. Ecco. Perché non mi sento. Ok. Allora, il venerdì prossimo, dicevo, al Cargo ci sono Biga e Pizzo che suonano insieme. Quindi un quarto di Ragnar Paisa e un mezzo ritmo. Ma il Cargo quello a Shoreditch o... Al Cargo quello in via dell'Ertaganina. Ah, quello in via dell'Ertaganina. È no, vero che ce ne sono due, un po' più famoso, ecco. Invece da un'altra parte al Doom, Minimono e io a mettere i dischi nella sala piccolina. Sempre per il weekend invece vi consigliamo Torino, dove c'è Club to Club. Ai Torino? Yes. Giovedì, venerdì e sabato prossimi, tra le tante a Torino. Cose. A Torino. No, credevo al Torino. Non è. A Torino è a Roma. E lì vi consigliamo, stai facendo solo confusione. Potevi stare lì dentro a chiacchierare sul cellulare invece, no. Che vi... Io sono essenziale. Essenziale. Lo sai. E insomma, dentro Club to Club a Torino un sacco di robe, tra le altre anche Code 9 che suona solamente pezzi di Burial. Questo nella giornata del 6 di novembre. Sentite Tommy per i prossimi 20 minuti. Por la noche tu mágica canción se baña con estrella el eco de tu voz. Algún bohemio que sueña haces correr con sus venas el vino azul del canto y de tu pena, y sigues trasnochada buscando la madrugada para perderte en las luces de la alborada. We'll be right back. linda mulata que representas tu color. Morena linda mulata que representas tu color. De nosotros a la gaita y del África el tambor. De nosotros a la gaita y del África el tambor. ¡Huepa, huepa, hey! Doctor Carvajal, prenda la vela. Y hace honor a tu raza la virtud que Dios te dio. Te llevo al banco pa' ver y después allí mi chagua. Te llevo al banco pa' ver y después allí mi chagua. Si te vieras con José, yo sé que tú te quedabas. Si te vieras con José, yo sé que tú te quedabas. Porque quieres conocer dónde nació la piragua. Porque quieres conocer dónde nació la piragua. Son las 5 de la mañana, Miguel. Tu trabajo rutinario te espera. Levántate y pon a hacer el café para que descanse tu compañera. Debes de tener en cuenta, Miguel, que el trabajo entre los dos más prospera. Con el arma hecha pedazo, pa' Miguel con el machete. Su mujer queda en el rancho, deseándole mucha suerte. Porque para el pan ganarlo, Miguel, tienes que sudar tu frente. Yeah. bambi, chumba la cachumba la cachumbamba, chumba la cachumba la cachumbambi. Cuando el reloj marca la una, los esqueletos adoran a la luna. Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos piden a su dios. Chumba la cachumba la cachumbamba, chumba la cachumba la cachumbambi, chumba la cachumba la cachumbamba, chumba la cachumba la cachumbambi. Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos juegan al bebé. Cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos miran tu retrato. Chumba la cachumba la cachumbamba, chumba la cachumba la cachumbambi, chumba la cachumba la cachumbamba, chumba la cachumba la cachumbambi. Bye. Uepa, ascolta. Sei divertito. Mi so, sì, mi è venuto un mal di testa colossale. Guarda, sotto, poi il cambio di temperatura. Vabbè. Mi sono portato dietro il disco perché ci tenevo, insomma. Ormai citalo. È da tre puntate a questa parte che porto le compilation che mi sono comprato quest'estate. No? Questa è stata l'estate delle compilation per me. L'altra volta quella con le robe persiane, vero. Poi quella con le robe vietnamiti. A questo giro ti ho portato a far vedere questo Palenque, che è una raccolta della Soundway, 3 LP. Questo ha gravato seriamente sui bagagli. Sul budget. Sul bagaglio, sì. È una raccolta di super pezzi Afro-Colombia, praticamente tutto quello che i pezzi più ricercati, insomma, da chi cerca le robe di questo genere, sono quasi tutti qua dentro. E super, ho suonato un po' di pezzi. Ho suonato un po' di pezzi, ora sinceramente non mi ricordo neanche che, perché ho cambiato 25 volte, ho preso 25 volte dischi in mano, cioè vabbè. Sai che dovrai risentire, dovrai ricordarti domani, tutto, perché sì, devi segnare, esatto, tutto sulla tracklist. Ancora devo prendere un po' confidenza, domani me li risento, poi ve li scrivo, così andate a vedere. Li trovate su ragnampaisa.blogspot.com. Visto che ci siamo, vi ricordiamo anche delle altre trasmissioni gemellate con Ragnan Paisa nel resto della settimana. Potete sentire venerdì sera dalle 22.30 Mix Solology, poi dall'una in poi invece Rufus con la sua 4 quarti, il sabato sera dalle 22.30 a mezzanotte 30 e la volta di Ritmo. Ognuna di queste trasmissioni c'ha un blog, un podcast collegato. Se partite da controradio.it trovate il bannerino delle quattro trasmissioni e poi tutti quanti i link. Noi vi salutiamo non perché la trasmissione finisce qui, ci abbiamo ancora 20 minuti a disposizione, ma perché lasciamo la console a Colossius e vi salutiamo dandovi appuntamento appunto a lunedì prossimo dalle 21 in poi, sempre su Controradio. No lean. It started with this chick who moved in 13. I started hearing a knock at 4 o'clock a.m. Started hearing a flock of high heels pop across the hall. I'm saying, yo, what the fuck through the peephole? Seen some people tipping the lab. Chicks, I mean, badass Kiko. Smack you off your ego, out the ego. But chill, here's the sequel. I mean, here's the meet, yo. Taking out the garbage on the creep, yo. The door opened up. A voice said, nice to greet, yo. I played the low, nodded half, looking in the room. Till I seen what's cooking. Boom. Another chick rocking a bra, watching TV, holding keys to a car. Boom. Now I'm definitely not booking. Yo, I got a loom. The chick at the door said they're gonna party till noon. As the light from the moon hit the hall wall, she talked a little, wiggling her middle, giggling like she had plans to fiddle in. Focus not shooking. Saying she just moved up from Brooklyn. Word. Wasn't really tookin', wasn't really looking. Yeah, whatever, whatever. Well, welcome to White Plains. You stack with a tight frame on smash. Whiplash in the right lane, man, not a nice game. She laughed, asked me if I knew Mike Zane in 15. I was like, not really, no. Well, I know he's got that blow. I was like, oh, took a picture of that body in my mind, yo. Then it was time to go, cause I wasn't trying to get caught up in the snow. Picked up the trash bag, time to break, yo. The next morning, woke up to a fucking stage show. 7 squad cars, DEA, 3 shepherds and snitches that sing like Stevie J for that green. Cause those chicks in 13 were undercovers trained and busted Mike Zane with 26 ounces of pure cocaine. Cocaine. Yeah.

guys. No. dragna paisada. I'm not.